Mix 24 di Giovanni Minoli. Incontro tra Merkel e Renzi è cordiale ma non caloroso alla tedesca. È stato in conferenza stampa che si è capita la trama della giornata. Tra i due vige una vibrante pace più o meno spontanea. Con Juncker è ancora guerra. Per noi la flessibilità è una condizione necessaria dell'accordo che ha portato all'elezione di Jean-Claude Juncker. Di fronte alle parole di Renzi, Merkel non fa una piega. Io non entro in queste cose, è compito della Commissione decidere e valutare su questo. Ora Merkel è in difficoltà in patria e in Europa. Quel che gli interessava in molto era avere la garanzia che l'Italia darà i soldi promessi alla Turchia perché si tenga i migranti siriani. Insomma, sull'esito del vertice tra la Merkel e Renzi mi sembra non esserci una lettura semplice e univoca. Il Corriere della Sera ha parlato di lento disgelo, La Stampa di nodi che non sono stati sciolti, L'Unità invece ha addirittura ipotizzato che la cancelliera e il premier italiano possano essere d'accordo nello sfiduciare la commissione guidata da Juncker. Ecco Mario, toni pacati e cordiali, ma poi alla fine secondo te c'è un esito? Si può parlare di un esito dell'incontro o siamo alla solita sospensione dei giudizi? No, un esito c'è, è zero dal punto di vista dei fatti diplomatici concreti per ora. Hanno ricominciato a parlarsi, questo ovviamente positivo. C'è da segnalare però che la Germania non ha mollato di un millimetro quelle che sono le sue convinzioni sui temi importanti, immigrazione e austerità. Renzi ha mantenuto il punto però sulla Juncker, questione Turchia, e poi anche sul fatto Juncker uguale flessibilità, l'abbiamo eletto per quello. Se quello eletto è per un punto quello, politico abbastanza importante. Beh, quello è tutto il nocciolo della questione, perché riguarda la nostra manovra, no? Quindi certo, e le clausole di salvaguardia che sono state spostate più in là. È cioè, quasi anche una specie do des, insomma, tu, io sì, ti do i soldi della Turchia e tu bisogna mi dai considerare la che i soldi della Turchia sono pochi. Poca cosa, sono 280 certo, milioni, noi invece parliamo di una manovra che 18 miliardi, decine di miliardi, certo, più le clausole di salvaguardia, certo, insomma, c'è dietro il futuro della prossima manovra. Vabbè, sei cominciato tu, Pietrangelo, che dici questo incontro? Mi ha colpito la scena, la postura, il linguaggio. Il fatto che Matteo Renzi chiamasse per nome Angela Merkel e diceva continuamente Angela, mentre invece Merkel non ha mai pronunciato un nome, piuttosto diceva Italia. E se dobbiamo discernere tra le tante letture date, quelle che a cui facevi riferimento tu, sì, La Stampa, quello che ha detto L'Unità, quello che ha detto Il Corriere, beh, la verità dei fatti sta nell'esito, secondo me, non proprio paritario tra Germania e Italia. Certo, è chiaro. E che comunque chi comanda si sa. Chi comanda è lei. E il nostro Matteo Renzi non può che assecondare l'andazzo. Adesso vedremo sulla flessibilità, insomma, Mario, no? Che cosa se questo scioglimento di un nodo anche psicologico porta a qualcosa di significativo nel rapporto fra Juncker e l'Italia. Il nostro dossier più urgente, i nostri dossier urgenti sono due: le sofferenze bancarie, come certo, eliminarle. Il certo, mercato non è convinto del meccanismo adottato. Sì, perché la copertura, la garanzia, diciamo così, è su una piccola parte in certo, realtà. Quindi questo dà meno fiducia, diciamo, per tradurre in soldoni questa cosa. E l'altra è appunto è la flessibilità di bilancio. Juncker dice: noi te l'abbiamo data già tutta quella che avevi quella chiesto, possibile c'era. Lo stesso dice il commissario UE all'economia, il francese Pierre Moscovici. Quindi qua bisogna capire che cosa succede realmente, cioè se Renzi ha

vive. Mettilo nell'altro. I can't give everything. Allora Mario, no, la niente, tua bolla no. Oggi, ma sì, come vediamo. La introduci? Jefferson è il primo. Allora, vabbè, questo White Rabbit è un pezzo marziale. Segnalo che ho pochi bassi in cuffia alla regia, non so perché. Non si sente niente nessuno dei tre, ma sai, la tecnologia è bellezza. La tecnologia bellezza è un po' marziale la musica, perché comunque il nostro Presidente del Consiglio oggi va in visita di Stato in Nigeria. Da oggi a mercoledì fa un po' di stati africani. Nigeria ovviamente è importante perché è inutile che vi spieghi, vedere che vuol dire Eni. Eni è presente nel paese dal 1962, quindi è una cosa che a noi ci riguarda da vicino, è interesse nazionale. Grazie quindi, a Mattei. Grazie a Mattei. Grazie al Mattei c'è Matteo che va là, quindi ripeto, interesse nazionale, viaggio più che giusto dal punto di vista istituzionale. Segnalo che il caso ha voluto però che questa missione estera del Presidente del Consiglio coincida con un momento durissimo per la Nigeria, perché è uno di quei paesi che ha voce di ricavi pari a 1 nel bilancio dello Stato e si chiama petrolio. Il prezzo del petrolio, come sapete tutti voi ascoltatori di Radio 24, è crollato e ergo il presidente Muhammadu Buhari ha dovuto chiedere un prestito urgente di 3.5 miliardi di dollari alla Banca Mondiale. Vediamo che cosa succede. Il viaggio di Renzi è importante anche per questo motivo. Certo. Salamino! Indovina chi viene a cena? Chi? Si sono visti a cena dopo il derby Milan-Inter Silvio Berlusconi, no. Matteo allegri Salvini, tutti e due, tutti allegri perché ha vinto 3-0. Chi Mazzo. Ha vinto? Il Milan. Ah, il Milan. Lui non tifa manco il Catania, guarda. No, guarda, lo tifi il Catania. Io tifo per tutte le squadre da Napoli in giù. Va bene. Quindi okay. Forza Napoli, perché so che Napoli questa volta bisognerebbe fare il campionato borbonico. E certo. Allora, si sono visti quindi Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Si sono visti in un ristorante milanese per decidere i nomi dei candidati alle amministrative e decidere anche il da farsi. Metti una sera a cena dunque. Oh, allora, Giorgia Meloni è in dolce attesa e quindi niente, non si può candidare. Silvio Berlusconi punta su Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ma la Lega borbotta. E giusto ieri Francesco Storace, facendo una cosa di destra, decidendo, ha avuto gran folla a Roma con una sua manifestazione. Pare che dopo aver avuto Ignazio Marino sindaco, anche Giorgio Napolitano vuole votare volentieri Storace. Su Napoli niente dubbi, si vota Gianni Lettieri. Mara Carfagna invece è proiettata per la leadership nazionale. Non ci sarà più Sgarbi a Bologna, ma Lucia Borgonzoni. E su Milano invece, la storia diventa delicata, perché Berlusconi punterebbe su Stefano Parisi, ex direttore generale del Comune di Milano, quindi predecessore di Sala, ma le carte più forti restano quelle di Alessandro Sallusti e quella di... Noi siamo la destra del mare, pagheremo i travestiti a calci dentro no. Sedere, ridaremo l'Italia agli italiani, Treviso e Trevigiani. Ecco, la candidatura più forte è quella di Daniela Santanchè, sostenuta da sondaggi tutti. Stellari, è l'unica che può polverizzare Giuseppe Sala. Ma il vero, che poi oltretutto Giuseppe Sala è il vero candidato di Silvio Berlusconi. Detto ciò, metti una sera a cena fin qui in un bar in via Giolitti vicino Montecitorio. Umberto Bossi ha rivelato la propria strategia, e cioè lista unica con Berlusconi, e poi Luca Zaia premier, ed è finita per tutti quanti, e dunque caffè soluzione. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. C'è la bolla, Mario, ancora? Sì, dai. È internazionale. Sì. Vabbè, Gloriuccia ha scelto oggi la musica, beh, pure il boss, ok, non ci vuole andare ancora un po'. Beh, siamo in America, Giovanni, perché comunque oggi si vota in Iowa e sono i caucus, comunque è un modo per votare, sono delle riunioni di partito in cui la gente si divide, ci sono vari modi di farli, io ho partecipato a qualcuno, sono molto divertenti anche. E che cosa succederà tra i democratici? Che cosa succederà tra i repubblicani? Ora, forse Clinton ce la fa, non è detto, perché Sanders sta salendo. Sì. Trump è solido nei sondaggi, è primo, vediamo che cosa succede. Sanders prende i giovani, Sì, rimette insieme nonni e nipoti. Sì, c'è tutta la retorica antifinanza, anti-Wall Street, che fa presa ovunque. La cosa divertente è che tra i repubblicani è candidato uno, no? Che poi è l'emblema, diciamo, di quel tipo di capitalismo. Ma lasciamo stare, se non sembra di nuovo molto spostato a sinistra. Invece è interessante vedere come gli inglesi, il Regno Unito, in particolare i conservatori, siano, non dico cauti con Trump, ma veramente ne prendono le distanze in una maniera incredibile. Non gli piace tanto. Beh, io personalmente penso sia una sciagura per il Partito Repubblicano, ma e anche per gli Stati Uniti, ma pazienza. Vabbè. Registriamo solo questa furibonda lotta contro l'immobiliarista del parrucchino, e valga per tutti una frase che ha detto Boris Johnson, il sindaco di Londra, un grande. Che ha detto? Non vado in certe parti di New York per non rischiare di incontrare Donald Trump. È un razzista. No. È un inglese. C'è scritto Donata, la dottoressa Donata Olivares della provincia di Milano, e dice, lo leggo con piacere, sono un medico di base, sono a bordo della mia C1 in giro per visite domiciliari. Brava! Quindi, brava! Bene. E poi Franco ci dice, rispondendo alla domanda di Pietrangelo, il medico di famiglia è stato sostituito da un impiegato pagato quanto un manager, non serve a nulla, ma costa tantissimo. Canzoniere! Un giorno ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. E me ne andai per ogni suolo strano cercando amore. E l'amore cercai l'estate e il verno. E sempre andai cercando amore, corsi cercando amore, ma l'amor non scorsi. E da casa tornai. 800 2400 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Mix 24. L'età dei Florio. Così la chiamano ancora gli storici del costume. Dal nome della famiglia allora più facoltosa e appariscente, al punto da trattare alla pari con i re e con gli imperatori. Così, L'età dei Florio, un documentario d'autore con il testo di Gesualdo Bufalino, ricorda la Palermo dei Florio. Una dinastia che per oltre un secolo domina la scena economica, imprenditoriale e culturale della Sicilia. Una grande flotta, poi cantieri navali, fonderie, tonnare, saline, cantine vinicole. E ancora la Targa Florio, prima gara automobilistica della storia. I viaggi in Europa, le ville di Palermo, dove trionfa l'eleganza e l'art nouveau. I Florio, Ignazio, un imprenditore geniale, e sua moglie Donna Franca, una bellezza leggendaria, immortalata da Giovanni Boldini e da Gabriele D'Annunzio. Amore, ricchezza e potere. Poi, inesorabile, la decadenza. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. C'hai ancora una bolla? Sì, no, c'è una reazione da Mosca, diamo al volo, che dice che sono interessati a mantenere l'integrità statuale della Siria. Questo vuol dire un aiuto ad Assad? Sì, anche, ma insomma un aiuto secondo me a tutta la comunità internazionale, che deve pur risolvere questo problema. L'attentato di ieri era terribile. Cioè, terribile, sì. La realtà è che siamo di fronte a una lunga guerra. Però alla fine posso dire una cosa, la storia non mente mai, i cattivi perdono sempre. Ah, bella questa. I cattivi perdono sempre. Riscoltiamo ancora il canzoniere un attimo. Un giorno ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. Mastro Gianni Bonacana, me ne andai per ogni suolo strano cercando amore. E l'amore cercai l'estate e il verno. E sempre andai cercando amore. Corsi cercando 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS per non aspettare fino a domani. Pietrangelo, ci dai una mano? Allora, piccolo aiutino. L'autore. No, perché le risposte che vengono sono un po' inquietanti. L'autore di questo libro è un, come si può dire? Non lo so. Insomma, conosceva bene le donne e sapeva di tutte le debolezze dei maschi, particolarmente galletti. E parlava di ingravida balconi. Di? Ingravida balconi. Vabbè, domani avremo la risposta. Intanto, certo. A distanza, intanto, sai, i maschi di Sicilia a distanza, certo. Adesso con il professor Bernabé, Roberto Bernabé, commentiamo come sempre le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, 15 novembre 2015. Quale associazione c'è tra giorno del parto ed esito del parto? Cosa succede a seconda di quale giorno della settimana partorisci? E soprattutto, lo studio ha voluto vedere se c'erano differenze nel parto avvenuto durante la settimana o durante il weekend. È evidente, perché uno pensa che nel weekend c'è una diversità di staffing, ci sono meno persone che sono lì per seguire il parto. E allora si è andato a vedere, facendo ovviamente un'analisi statistica precisa, sempre correggendo, come si dice, per l'età della madre e il peso alla nascita, che è un indicatore della salute del feto, del nascituro. Allora, correggendo per questi dati statistici, si è visto cosa succedeva se nasci il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, oppure durante il weekend. I parametri che sono stati valutati sono stati quelli della mortalità neonatale, delle infezioni della puerpera, della riammissione all'ospedale perché era successo qualche cosa nei periodi successivi e nei traumi della mamma e del bambino. Bene, partorire nel weekend peggiora la situazione, nel senso che la mortalità è passata in questo campione inglese, quindi ricordiamoci è sempre Inghilterra, non è Italia, passata da 7.3 per 1000 nati a 8.2, che è una differenza non solo statisticamente significativa, ma è una differenza importante. Sono aumentate anche le infezioni della madre durante il weekend. Tutto questo non sembra però collegato al diminuito staffing, a una diminuita presenza di personale. Ci sono altri fattori che non sono stati i ricercatori in grado di analizzare, però certo è che il dato è interessante. Meglio partorire durante la settimana. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi ho scelto Un corteggiamento d'altri tempi con Eterni capricci di una donna. 20 chilometri al giorno, Nicola Rigliano. 20 chilometri al giorno.